Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera, cari ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Mebius. Fra poco, dopo i titoli, vi diremo alcune cose molto particolari su terremoto e tsunami. Il dibattito sul nucleare si riaccende dopo il disastro giapponese, ma in Italia siamo sicuri di escludere un sisma di magnitudo 9? È invece possibile fermare un'onda di tsunami quando questa si avvicina alla costa? E si può prevedere quando un terremoto la può generare? Quegli scienziati italiani sulle barricate che vissero fra scienza e risorgimento. Il Gipeto va in TV. Una webcam riprende l'intimità del più grande avvoltoio italiano. Ci è capitato altre volte con la nostra trasmissione di arrivare un certo numero di giorni dopo un evento che presenta degli aspetti, delle possibili considerazioni di tipo scientifico. E uno di questi casi tipici è proprio il terremoto e tutte le sue conseguenze. Questa sera quindi non vi riproporremo una serie di considerazioni generali. In questa settimana la stampa e le televisioni quotidiane hanno ampiamente coperto tutti gli aspetti fondamentali. Vi proporremo invece alcune osservazioni e informazioni molto mirate su degli aspetti, tra l'altro, molto diversi fra loro. Per la prima di queste considerazioni è qui con noi Giampaolo Cavinato. Buonasera Cavinato. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Geologo dell'Istituto di Geologia Ambientale del CNR. Senta Cavinato, io in pratica ho sostanzialmente una domanda, poi ce ne sarà un'altra, ma vediamo, insomma, una domanda fondamentale. Si dice che in questo ovvio dibattito che si è sviluppato in tutto il mondo e quindi anche in Italia sul nucleare e sulla sua sicurezza, si dice che le condizioni, la tipologia del territorio giapponese non può assolutamente essere assimilata a quella italiana e quindi si dice che terremoti di quelle intensità, quindi fino a grado 9, non possono rappresentare un problema per i nostri impianti. Però quello che volevo chiederle è questo, e mi pare che addirittura sia venuto fuori nell'ultimo grave terremoto dell'Aquila, e cioè mi sembra che voi ricercatori, insomma voi geologi, abbiate ormai verificato che nei terremoti c'è un'area vasta che è interessata dal sisma e quindi da un'intensità delle scosse che mediamente può essere misurata, certo, e ci date le cifre, ci date i numeri, però poi localmente in alcune zone, magari che possono essere ristrette un piccolissimo paese o che ne so, me lo dirà lei, un'area anche molto più limitata, beh, lì si possono concentrare degli effetti combinati per cui l'intensità sale notevolmente. È vero questo? Diciamo, è parzialmente vero, le spiego come diciamo, nasce questa idea, questa diciamo, realtà che poi si deve confrontare assolutamente con quello che è la conformazione di qualsiasi territorio, indipendentemente se siamo in Italia o in Giappone. Mm. Il problema è legato alla legge della propagazione delle onde sismiche. Mm. In poche parole, un'onda quando si viene generata da un treno d'onde, in realtà, perché si parla di più onde che vengono generate dal terremoto, che partono dal punto dell'ipocentro del terremoto, si gradano quindi verso la superficie e verso il centro della Terra, perché si gradano uniformemente. Prendiamo però il caso che ci interessa di più, che è quello verso la superficie. Cosa avviene? La legge dell'onda è regolata essenzialmente da due cose, dalla densità del mezzo e dalla velocità che ha l'onda relativamente alla tipologia delle rocce che vengono attraversate. E soprattutto il problema più grosso è che la conformazione di qualsiasi territorio non è uniforme, non possiamo considerarlo ad esempio costituita da un unico pacco di rocce come potrebbe essere per esempio una superficie piana di un tavolo per esempio di cucina o di qualsiasi altro, un tavolo di marmo o di legno, ma in realtà purtroppo è legata proprio a come si è formato nelle aree geologiche quel determinato territorio. In poche parole, le onde del terremoto, quando arrivano in superficie, attraversano i diversi strati della terra che trovano dall'interno della parte più alta della crosta fino in superficie. Ed è proprio la diversità di distribuzione delle rocce in superficie che genera degli scuotimenti differenti a seconda del tipo di rocce. Quindi, per esempio, le rocce più compatte, diciamo così, trasmettono di meno la vibrazione del terreno. Le rocce incoerenti, come possono essere quelle lasciate dai fiumi, dai laghi, eccetera, quando poi il lago viene prosciugato, eccetera, sono più soffici e quindi trasmettono e amplificano certe volte il segnale sismico. Ed è per questo quello che si è verificato, per esempio, anche all'Aquila, che in certe zone la risposta viene chiamata risposta sismica locale, cioè cosa avviene quando un terremoto investe un'area vasta e produce dei danni diversificati che altrimenti non sono spiegabili. Allora, quello che noi stiamo facendo come ricercatori, lo facciamo anche con la Protezione Civile, è proprio quello di cercare di capire e di zonare il territorio, quindi di studiare come è fatto il sottosuolo e identificare delle zone dove il comportamento, la risposta sismica, cioè l'effetto di vibrazione del terremoto è uniforme. In modo particolare si chiama zonazione, microzonazione sismica. In poche parole è come se noi costruissimo una maglia, una rete di poligoni che identificano, ogni poligono identifica un comportamento di quel terreno a seguito delle vibrazioni di un terremoto. Ma quindi quando si parla genericamente di sicurezza delle centrali, come dire, a priori, perché intanto qui da noi non può avvenire un terremoto con l'intensità giapponese, lì si dicono delle cose un po' superficiali, cioè bisogna introdurre tutto questo discorso della allocazione che rende più complessa la cosa. Certo. Questi studi che le dicevo comunque vengono basati anche su dei terremoti di riferimento. Che cosa significa questo? Significa che si studiano i più forti terremoti che sono avvenuti nell'immediata vicinanza dell'area di studio. Per esempio, noi riusciamo a capire quanto può vibrare un palazzo che è poggiato su dei terreni che hanno comportamento diverso, in modo tale da stabilire se quel palazzo può subire seri danni oppure può resistere. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è un'immagine che è corsa per tutto il mondo, un video, nelle primissime ore della tragedia giapponese. È un'immagine, un video ripreso da un elicottero che si alza in volo in un punto della costa giapponese e riprende un'onda che parte, che si vede partire da credo almeno un chilometro dalla costa, e quest'onda inesorabilmente preceduta da un mare che sempre resta piatto e davanti assolutamente piatto, e quest'onda inesorabile si avvicina verso la costa finché questa costa è molto piatta, ahimè purtroppo, e è una grande spiaggia, finché l'onda si incontra con la terra e diventa questa massa melmosa nera che entra nel territorio anche per un chilometro. Nevio Zittellini, ricercatore dell'ISMAR, l'Istituto di Scienze Marine, è qui con noi stasera. Buonasera Zittellini. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io credo che tantissima gente si sia posta questa domanda. Ma santo cielo, c'è un mare piatto sul quale sale quest'onda di 3-4 metri. Possibile che non ci sia un sistema per interromperla, per fermarla, magari anche preventivo, in una zona della costa giapponese che certamente, essendo un paese soggetto insomma a tsunami, potrebbe, ecco, questa costa essere protetta, che ne so, da dei moli a una certa distanza che rompano questo fronte energetico? Guardi, i giapponesi naturalmente sono avanzatissimi nella difesa degli tsunami, perché loro sono continuamente esposti a questa minaccia, come si è visto in questa occasione. Certo, i giapponesi non si aspettavano uno tsunami di queste proporzioni. In ogni caso, le difese, ci sono alcune difese, per esempio i giapponesi hanno costruito lungo le coste, in punti sensibili, per esempio delle sorte di dighe, però queste dighe non erano state costruite per uno tsunami di queste proporzioni, tant'è che c'è un'immagine in cui si vede proprio che arriva quest'onda e tracima praticamente, supera questo muro, questa diga, tracima e inonda tutta la parte costiera. E non c'è modo di difendersi da tsunami di queste proporzioni, perché cosa succede? Lo tsunami si genera quando c'è un terremoto in mare, quello che si associa a questo, in questo caso grande terremoto, è uno spostamento proprio del fondo. Spostandosi il fondo, ma noi dobbiamo pensare che è un pezzo, diciamo, una porzione di fondale marino di qualche centinaio di chilometri, diciamo 100 per 100 chilometri, in questo caso probabilmente molto di più. Spostandosi verso l'alto si sposta anche tutta la colonna d'acqua e poi questa rifluisce per gravità, per sì. raggiungere la sua posizione, nuova posizione di equilibrio. E quindi si genera un'onda di altezza molto molto piccola, dell'ordine delle decine dei centimetri. In questo caso sembra, ma ancora i dati non sono certi, c'è stato circa un metro di sollevamento della colonna d'acqua, ma di lunghezza, quindi la lunghezza dell'onda, dell'ordine del centinaio di chilometri. E questo si muove molto rapidamente, a 600, 700, 800 chilometri all'ora, come un jet. Però questa velocità è proporzionale alla profondità dell'acqua. Molto profonda è l'acqua, molto veloce l'onda. Quando quest'onda arriva verso costa, la colonna d'acqua diminuisce di spessore, quindi rallenta la velocità. Sì. Quindi cosa succede? Che quando arriva quest'onda lunghissima, vi dicevo, dell'ordine del centinaio di chilometri, quando arriva verso la costa, il naso, la parte frontale, la rallenta, però dietro continua a essere veloce, perché cioè, lei la coda è ancora in alto mare. Ci sta dicendo quindi, che, mi scusi se ne interrompo per capirci bene, se ci fosse insomma una mano gigantesca che venisse giù dal cielo e che scompaginasse quel fronte d'onda che noi vediamo avvicinarsi, in realtà dietro quel fronte c'è costantemente energia che lo crea. Eh sì, perché questo, il fronte, diciamo, quando noi vediamo alzarsi la l'onda nella parte frontale, perché lì l'acqua è bassa e quindi c'è questa compressione, dietro è veloce, davanti rallenta, si comprime e si alza. Se io cercassi di spezzarlo si riformerebbe immediatamente, quindi praticamente non c'è difesa su questo. Non c'è difesa, perché il video in questo caso, come dire, genera un falso visivo. Noi vediamo l'onda e pensiamo che sia lì lo tsunami, vediamo la parte, come lei diceva prima, il naso, ma in realtà dietro c'è un'onda che è lunga anche 100 chilometri. Esattamente, quindi non c'è siamo difesa. Completamente impotenti, non possiamo fermarlo assolutamente. Ed è anche per questo che questa spinta dell'acqua che entra nel territorio sembra non finire mai, perché uno si domanda come mai dopo 100, 200 metri non riesca a restarsi, ma dietro ha un'energia che continua ad alimentarla. Esattamente, esattamente, proprio perché la lunghezza di quest'onda è amplissima, e quindi anche se è pochi centimetri mare aperto, poi diventa di qualche metro quando si arriva sotto costa. E quindi questo video ci ha ingannato facendoci pensare che magari una soluzione. Ci sono anche le proporzioni, no? La vista è dall'alto, si vede un grande spazio, quindi l'onda sembra piccolina, in realtà non è così. Non è così, è tutta un'altra storia. Poi c'è il mare calmo davanti, del resto è come quando il mare calmo anche lì inganna, come quando si lancia un sasso nello stagno, no? È tutto calmo nello stagno, si lancia il sassolino, però lì localmente c'è l'onda. Lì c'è l'onda. Quindi non è l'apparenza di mare piatto e calmo che è ingannevole. Che fa sembrare tutto più piccolo, insomma, meno importante. Ecco. Nevio Zittellini, grazie. Grazie e buon lavoro. Anche a voi, buona giornata. Con Paola Rebusco da Boston, intanto ti saluto, ciao Paola. Ciao, ciao a tutti. Ci colleghiamo via Skype per informarvi di alcune ricerche che sono in corso rispetto a sistemi di preallarme, preavviso in caso di tsunami. Sono in corso, Paola, fin dallo tsunami che aveva attraversato l'Oceano Indiano, tante ricerche per avere dei sistemi di allarme. Questa di cui adesso tu ci parli è specificamente rivolta, è più recente, ed è specificamente rivolta a individuare non in generale il terremoto, ma il terremoto che può generare tsunami. Sì, esatto, parliamo di una ricerca mirata a identificare i terremoti con il potenziale di diventare uno tsunami e sono dei risultati che sono stati pubblicati un paio di settimane fa, ma il gruppo di ricerca, che è un gruppo del Georgia Institute of Technology, ci sta lavorando da una ventina d'anni. Quindi è una ricerca in corso da tanto tempo che però adesso è arrivata a dei risultati molto interessanti. Sì, adesso sembra che è il momento in cui si possa applicare. Su che cosa si basa allora questa ricerca per essere così sicuri di poter fare una differenza fra terremoti con onde distruttive e non? Allora, innanzitutto si basa sul fatto che i terremoti che producono uno tsunami hanno delle frequenze molto più basse dei terremoti che non producono tsunami. Frequenze di vibrazione. Di frequenza di vibrazione. Perché, ti domanderai? Infatti, giusto? Come mai si riesce a fare questa differenza? Possiamo capirlo se ci immaginiamo di prendere la boccia dei poveri pesci rossi e di scuoterla. Se la scuotiamo rapidamente ad alta frequenza, possiamo creare delle increspature sull'acqua, ma nulla di che. Se invece la iniziamo a far oscillare lentamente, con una frequenza simile alla frequenza con cui l'acqua si sposta da un lato all'altro, allora a un certo punto si creano delle onde talmente alte che l'acqua fuoriesce dalla boccia. Beh, certo, questo è evidente, mi immagino anche un catino che solleviamo e poi riabbassiamo e poi risolleviamo lentamente, sappiamo che dentro si forma un'onda più alta. Ecco, il sistema di allerta si basa su un algoritmo, che sarebbe una ricetta matematica sul computer, che da un lato raccoglie i dati da diversi centri sparsi su ampie regioni, dall'altro li confronta con i modelli e con i dati storici, e a questo punto valuta se un terremoto in corso ha il potenziale di sviluppare uno tsunami o meno. Certo, perché si hanno tutte le registrazioni di come un terremoto avvenuto anche anni fa si è propagato, che tipo di onde ha generato. Esatto, se sappiamo poi che ci sono delle frequenze più basse, allora c'è una possibilità più ampia che si sviluppi uno tsunami. Se invece le frequenze, le vibrazioni sono più rapide, allora è meno probabile che si sviluppi uno tsunami. E quindi da questa ricerca quello che viene fuori è che la cosiddetta magnitudo, cioè per esempio il grado di intensità del terremoto nella scala Mercalli, è secondaria. Altro elemento importante è quanto tempo prima, per esempio in questo caso, un sistema è in grado di dire: guardate che sta arrivando un'onda. E questa è la grandissima novità, perché riescono ad avere un vantaggio di 20-30 minuti. Hanno già avuto modo, visto che è incominciato tempo fa, di fare dei test importanti? Effettivamente c'è stata un'importante conferma del funzionamento di questo metodo l'anno scorso, quando c'è stato lo tsunami in Indonesia, a Sumatra. Grazie a questo sistema sono riusciti a prevedere che il terremoto aveva il potenziale di sviluppare uno tsunami, ma purtroppo non sono riusciti ad avvisare le autorità e le persone locali in tempo. Va bene Paola, ti saluto e vediamo se ci sono novità sulla possibilità che questo sistema venga effettivamente attivato, ce lo dirai in seguito. Ciao Paola. Va bene, passo e chiudo. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Parleremo, come vi ho detto, di scienziati risorgimentali italiani, ma prima c'è il nostro quiz. Domanda brevissima. Stanno per arrivare 1. I golfini naturalmente fluorescenti. Ci scriverete golfini. Le caramelle al gusto di vino. Ci scriverete vino. Una tintura naturale per cambiare colori a gatti e cani, e ci scriverete colore, dove al solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è il Dizionario di Astronomia, scritto da Walter Ferreri e edito dal Gruppo B. In collaborazione con IBS.it. Dunque, come vi dicevo poco fa, scienziati italiani sulle barricate, e sono quelle del Risorgimento. Anche noi vogliamo dare un piccolo contributo ai festeggiamenti per il 150esimo, e effettivamente in quegli anni dal 1830 al 1860, insomma, anche un'area, un gruppo di scienziati italiani ha partecipato a questo evento così importante per il nostro paese. Per parlare di queste storie abbiamo ospite questa sera Pietro Greco. Buonasera Greco. Buonasera a tutti. Ci diamo subito del tu, collega, giornalista scientifico, ma anche da anni, da tempo, uno scrittore, narratore di storie di scienze, quindi ti abbiamo chiamato per questo. E poi c'è sempre Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Vorremmo dedicare una finestra particolare a Stanislao Cannizzaro, chimico, quanto mai impegnato nelle vicende risorgimentali. Però Pietro, possiamo dire che in generale in quegli anni ci sono diversi scienziati, insomma c'è una pattuglia di scienziati italiani che si impegna. C'è tutta la comunità scientifica italiana, o almeno quasi tutta, tant'è che nel 1839 organizzano questa comunità scientifica organizza la prima riunione degli scienziati italiani. L'Italia non esiste, ma loro si sentono italiani e organizzano la prima riunione degli scienziati italiani e ne faranno una all'anno, la prima da Pisa, poi una all'anno in città diverse e una si terrà anche nel 45 a Napoli e a questa di Napoli parteciperà per la prima volta anche il giovanissimo Stanislao Cannizzaro. Quindi era un gruppo addirittura d'avanguardia rispetto alle battaglie risorgimentali. Era un gruppo che aveva come doppio impegno quello di promuovere la scienza, perché pensavano che la scienza avesse un valore in sé, ovviamente di conoscenza, ma fosse anche un fattore di progresso per la penisola. E poi volevano che la penisola fosse unificata, appunto erano dei patrioti, quasi tutti. Ci ricordi qualche nome, oltre a quello di Cannizzaro? Beh, certamente un nome importante fu quello di Raffaele Piria, che era anche lui un chimico, era reggino di Reggio Calabria, ma fu chiamato dal Granducato di Toscana, che aveva sostanzialmente questa visione della scienza, fu chiamato a Pisa, a dar luogo a far nascere l'università, quella che è oggi l'università di Pisa, e a organizzare una grande scuola. Ecco, Raffaele Piria fu uno di questi e poi Raffaele Piria fu chiamato, quando Garibaldi liberò il Mezzogiorno d'Italia, fu chiamato a far parte del governo di Garibaldi a Napoli e poi è stato il maestro di Stanislao Cannizzaro. Oh, Barbara, Stanislao Cannizzaro, siciliano-palermitano. È un siciliano-palermitano con una vita estremamente avventurosa che in qualche modo si placa dopo l'Unità d'Italia quando lui torna a Palermo e fonda questa grande scuola di chimica che si colloca subito nel contesto internazionale. E in effetti mi viene da chiedere, ma tutte queste frequentazioni internazionali che questi scienziati ebbero forzatamente, perché insomma dovevano scappare prima dell'Unità d'Italia per sottrarsi alle persecuzioni dei loro governi locali, aiutarono in qualche modo a internazionalizzare un po' la ricerca italiana dell'epoca? Certamente, la comunità scientifica italiana di quel periodo era davvero internazionale, nel senso che frequentava tutto l'ambiente scientifico europeo, tant'è che in quelle riunioni che vi ho citato venivano personaggi di grande valore come Babbage, per esempio, aveva partecipato a Torino e anche ad altre riunioni di questo genere, ma molti scienziati italiani si sono formati all'estero e allo stesso Stanislao Cannizzaro, dopo i moti siciliani del 1848, dove partecipò sia come ufficiale, quindi come militare, sia come commissario di governo, quindi con un ruolo diciamo più politico, poi i moti... Venne condannato a morte, se non sbaglio, al termine. Fu anche condannato a morte. Infatti lui dovette riparare in Francia, andò a Parigi, si formò a Parigi, ritornò a Genova nel 1858, pubblicò il suo famoso assunto di filosofia chimica, nella quale rilanciò alla grande l'ipotesi atomica e molecolare di un altro grande scienziato italiano, il piemontese Amedeo Avogadro. Ecco, Cannizzaro è passato alla storia per alcune scoperte scientifiche, in particolare c'è una reazione chimica che porta il suo nome, però fu anche un grande iniziatore, un grande organizzatore, fondò un giornale di chimica. Qual è veramente il suo impatto nella storia della chimica? Ma certamente la reazione alla quale tu ti riferisci, la reazione di Cannizzaro, è la trasformazione delle aldeidi aromatiche in alcol e acidi, che è una reazione che oggi si chiama appunto reazione di Cannizzaro. Lui ha fondato varie scuole, a Palermo, poi a Roma, quando nell'Italia appena dopo l'unità si pensò di fare della capitale d'Italia uno dei grandi centri mondiali della scienza, chiamarono anche Cannizzaro per fare questo e lui divenne anche senatore per questo, ma io penso che il suo più grande contributo alla scienza italiana sia proprio quello di aver fatto affermare definitivamente a livello mondiale quella idea che era stata di Avogadro, e questo successe proprio nell'autunno del 1860, quindi poco prima dell'Unità d'Italia, nel congresso internazionale di Karlsruhe. Lui con una sua relazione dimostrò in maniera inequivocabile che Amedeo Avogadro aveva ragione. Da questo punto di vista lui ottenne anche l'appoggio incondizionato di Mendeleev, che era un altro grande chimico di assoluto valore internazionale, e in quel momento la chimica italiana, io penso, raggiunse davvero l'apice, perché per forza, per capacità di un italiano, Cannizzaro, l'idea di un altro italiano, incompresa da circa mezzo secolo, divenne l'idea fondante della chimica contemporanea, cioè l'idea che la materia è organizzata in atomi e in molecole, che atomi e molecole sono due entità distinte. Senti Pietro Greco, ma c'è un aspetto della vita di Cannizzaro che lascia un po' perplessi. Lui fonda questa scuola di chimica che ha il suo massimo splendore a Palermo tra il 1861 e il 1871, poi viene a Roma, diventa fra l'altro anche senatore, dopo breve viene seguito anche dal migliore dei suoi allievi, e in questo modo si crea una specie di emorragia che poi danneggia molto gravemente la scuola di Palermo. Ecco, non ci vedi una sorta di metafora in questi scienziati che raggiungono l'apice della loro carriera, lasciano il Palermo, lasciano il Sud Italia, se ne vanno e vanno a portare crescita intellettuale altrove e sicuramente impoveriscono la terra d'origine? Certo, se posso spezzare una lancia a favore di Cannizzaro, è il fatto che appunto, diciamo, nell'Italia post-risorgimentale, appena dopo l'unità, c'era questa idea di fare del paese, cioè, di fare della scienza la leva per il progresso del paese e di fare di Roma la città, una città, la terza Roma, diciamo, la grande città internazionale della scienza, per cui tutti i più bravi vennero a Roma, lo fecero i matematici, lo fecero appunto i chimici, lui creò una grande scuola. Per esempio il friulano Chamichan venne a Roma, allievo di Cannizzaro, e poi andò a Bologna e fondò una grande scuola chimica a Bologna. Che certamente c'è tuttora, tra l'altro. Certamente impoverì il mezzogiorno, ma allora Palermo era anch'essa una grande città di scienza, ricordo il circolo di matematica che aveva una rivista di assoluto valore mondiale. Sta accadendo anche adesso una cosa di questo tipo? Adesso quel che accade è che forse una parte dei più bravi, non tutti, una parte dei più bravi tende ad andare all'estero piuttosto che a restare in Italia. Però certamente il Mezzogiorno paga in questo momento una mancanza di strutture e di appeal importanti, per cui molti meridionali vanno o nel nord del paese o soprattutto all'estero. Dal punto di vista scientifico, l'Unità d'Italia fu un arricchimento per la scienza del meridione, un'occasione perduta, un impoverimento? Cosa fu? Certamente fu un'occasione di arricchimento, perché le strutture scientifiche del Mezzogiorno rinacquero a nuova vita. Faccio un esempio: proprio nel 1845, quando Stanislao Cannizzaro venne a Napoli incontrò grande fisico parmigiano che fondò l'Osservatorio Vesuviano, e l'Osservatorio Vesuviano è stato il primo osservatorio vulcanologico al mondo, e quindi in questa idea di unità della scienza italiana che nacquero, diciamo, delle grandi strutture. Poi anche nel Mezzogiorno, purtroppo per il Mezzogiorno è stata una questione mancata, ma per un po' in tutto il paese. Perché quello che non si è riuscito a fare non è stato creare una comunità scientifica, perché la comunità scientifica italiana è stata davvero importante. Per esempio la matematica italiana divenne in pochi anni la terza matematica al mondo, diciamo, insieme a quella francese e la tedesca. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la matematica italiana era la più grande al mondo. Quello che non si è mai riuscito a fare in Italia, che era invece nello spirito risorgimentale, era quello di fare della scienza un volano per lo sviluppo del paese. Nei primi anni, nei primi due decenni, diciamo, dell'unità, ci furono anche investimenti nella scienza, nella ricerca, nella tecnologia. Poi però effettivamente tutto declinò. Tutto declinò, sì, purtroppo. Noi abbiamo in questa storia, anche breve, 150 anni non sono moltissimi, la storia d'Italia, abbiamo avuto dei picchi anche di attenzione politica e dei rapidissimi declini. Per esempio un altro grande picco di attenzione politica è stato nel secondo dopoguerra. Appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fino all'inizio degli anni 60, l'Italia ridiventò improvvisamente davvero un paese in cui la scienza e la tecnologia fiorivano. Ci furono anche dei risultati notevoli, per esempio la Perugina, il primo computer che potremmo definire tra virgolette moderno, fu creato in Italia. Esatto, e l'Italia fu il terzo paese al mondo a spedire un satellite proprio nello spazio, aveva un'idea di sviluppo del nucleare indipendente, diciamo, abbastanza sviluppato. Premi Nobel dall'Inghilterra venivano a Roma per studiare all'Istituto Superiore di Sanità, gli svizzeri venivano a Roma e per le ricerche svolte a Roma, parlo di Bovet, vinsero un premio Nobel che deve essere considerato un premio Nobel a tutti gli effetti. Nato qui di fatto, certo. E quindi davvero quel periodo fu un periodo straordinario per la scienza italiana. Da un italiano, da Amaldi, nacque l'idea del CERN, nacque l'idea dell'ESA, quindi era seminale anche per l'intera Europa. Poi improvvisamente all'inizio degli anni 60 si è avuto un blocco. Troveremo altre occasioni per raccontare un po' di queste storie che credo al largo pubblico siano ignote. Grazie Pietro Greco. Grazie a voi. E ciao Barbara. Ciao Federico e grazie a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve la ricordate la domanda del quiz? Stanno per arrivare i golfini naturalmente fluorescenti, le caramelle al gusto di vino, una tintura naturale per cambiare colore a gatti e cani. Santo cielo, ve ne immaginate un mondo nel quale ci fossero gatti e cani di tutti i colori? Ho la sensazione che, sebbene non vi sia notizia di tale scenario, una delle nostre invenzioni spudorate, l'idea potrebbe ad un certo punto diventare realtà. Dubito che qualcuno invece troverebbe gradevoli delle caramelle che sanno di lambrusco. Accade invece che, alimentando con una certa dieta il baco da seta, dieta a base di gelsi e una vernicetta fluorescente ma di origine naturale, costui produca il baco, voglio dire, un filo che appunto è di un bel rosa fluorescente. C'è da dire che anche il baco diventa fluorescente. Vabbè, ma insomma, fa già una vita che, insomma, sarà mica questo il suo problema. Sono qui in studio con Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. E c'è anche qui di fronte a noi, Chiara, Michele Manghi, che salutiamo. Buonasera Manghi. Buonasera a tutti. Però ci diamo del tu perché ci conosciamo da tempo, sei un giornalista scientifico, quindi un nostro collega, però anche Abin, un'attività molto singolare che è quella di strutture e tecnologie per il monitoraggio ambientale in situazioni abbastanza strane. Infatti ne stiamo per introdurre una che è decisamente singolare, un po' stravagante, sì. Che riguarda il gipeto. Sì. Ecco, allora Chiara, tu sei un'etologa. Sì, io ho un ricordo bellissimo del gipeto, che è questo avvoltoio italiano che è stato circa 5 anni fa reintrodotto sulle nostre Alpi, e appunto mi ricordo di averlo visto sorvolare sulle montagne del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e devo dire che è un'emozione grande, perché adesso ci racconterà anche Michele che tipo di volatile è, cioè un volatile piuttosto importante. È anche un po' strano, no? Perché non sa cacciare. Non sa cacciare, ha una vita veramente infernale, perché passa gran parte del suo tempo a cercare carogne, nel senso letterale del termine. Nidifica facendo 2 uova all'anno in condizioni che definirei disumane, perché utilizzano nidi in alta quota tipicamente abbandonati da aquile, quindi diciamo con una nidificazione opportunistica, e passano lì l'inverno più rigido che ci possiamo immaginare, perché la temperatura altezze? Lì è 2500 metri. Quindi si va 20-30 sotto zero? Si va 20-30 sotto zero tranquillamente di notte. Scusa, ma pure in questo senso è parassita, cioè si prende il nido di altri, non se lo costruisce. Si prende il nido senza gran battaglia, cioè tipicamente sono nidi abbandonati, se lo risistema un po', diciamo, verso settembre, quando la coppia si decide effettivamente di scegliere di nuovo quel nido. Hanno una fedeltà al nido abbastanza buona, anche se non assoluta, cioè vedono un po' com'è la situazione nel nido magari che hanno usato l'anno precedente, e poi se tutto va bene tornano lì. E beh, ricordiamoci comunque che è un avvoltoio, quindi questo è il suo comportamento, ed è anche per questo motivo, per le difficoltà appunto etologiche che riscontra, che appunto ha avuto dei problemi gravi di estinzione soprattutto nel nostro territorio, e appunto è stato introdotto qualche anno fa sulle nostre Alpi per poterlo rivedere. Sì, diciamo è un anello importante dal punto di vista generale dell'ecosistema, perché essendo un animale che mangia solo carogne, peraltro tipicamente mangia ossa che dal punto di vista energetico sono molto ricche, ma che praticamente quasi nessun animale riesce a mangiare. Invece hanno un esofago adattato, uno stomaco che è capace di macinare praticamente qualsiasi cosa, mangiano ossa lunga una spanna, cioè senza masticarle, sono degli uccelli quindi non hanno denti per masticarle. Si è estinto già verso la fine del secolo scorso, quando era oggetto di caccia, perché tutti pensavano che fosse un predatore, vedendolo in volo, pericoloso, vedendolo in volo con carcasse anche di animali di una certa dimensione, si pensava che fosse un predatore. Sì, quindi... perché Michele, vedendolo appunto dal basso, vedi un'apertura alare di circa 3 metri, ha veramente una sagoma che somiglia proprio a quella dell'aquila. Sì, quindi sì, è una grande facilmente... aquila. Una grande aquila, infatti diciamo le uniche interazioni un po' territoriali, un po' serie che ha sono con le aquile. Sì. Insomma, quanti comunque... ce ne saranno, lo sapete? Dunque, su tutto l'arco alpino mi pare siano una quarantina, adesso come adesso, e lì nel Parco dello Stelvio sono 4 copie. Poche decine. Vabbè, siete andati su, gli avete messo una videocamera. Abbiamo messo una telecamera, questo già verso la fine del 2009, approfittando di un momento, diciamo c'è un periodo dell'anno in cui il piccolo se n'è già andato, cioè il giovane se n'è già andato. I genitori non hanno ancora riscelto il nido, quel nido lì però sembrava andare bene, è un nido vicino a Bormio, e siamo andati a mettere questa telecamera. A 2600 metri con infiniti problemi tecnici. Ecco, immagino, infatti. Sì, perché ovviamente lì non c'è corrente elettrica, abbiamo dovuto installare un piccolo castello di pannelli fotovoltaici in una zona centinaia di metri lontana dal nido per vari problemi, compresa l'esposizione al sole, trasmissione del segnale, portare giù a Bormio sto segnale, video, che insomma non era proprio banale. E con l'aiuto valente di diciamo, amici del soccorso alpino lì siamo riusciti a scendere al nido, che è su una parete verticale di 70 metri, cioè è una roba anche un po' complicata da raggiungere. Non è uno studio televisivo fra i più comodi. Ecco, esatto. E abbiamo installato questa cosa chiedendoci un po' come l'avrebbe accolta. E appunto, com'è che l'ha presa? L'hanno presa bene, cioè, i due gipeti, poi quando sono tornati sì, lì, voglio dire, un'intimità distrutta. Un'intimità distrutta. Sì. Scherzavamo in quei giorni dicendo, vabbè, insomma, che alla fine avevamo portato internet a casa dei gipeti e quindi dovevano essere solo che contenti. In realtà, ovviamente, avevamo molti timori che questa cosa avrebbe... fosse invasiva. Sì, esatto. Invece poi... No, il nido non è stato abbandonato né quell'anno né l'anno successivo, cioè l'anno corrente. L'anno scorso è cresciuto un gipeto, peraltro che si trovava molto bene a casa, che non se n'è andato fino all'ultimo momento. Il classico italiano. Come i ragazzi di oggi. Come un po' i ragazzi di oggi. E adesso, in questi giorni, abbiamo avuto la schiusa della nidificazione di quest'anno. Quindi, che è possibile vedere, su un sito, giusto? Che è possibile vedere su un sito, sì, perché insomma le immagini vengono caricate per i ricercatori, è possibile vederle live in movimento, per il pubblico viene caricata un'immagine ogni 2 minuti sul sito che è gipetostelvio.it, il sito dedicato a questo progetto. Forse è necessario spendere 2 parole su che tipo di informazioni ci possono dare, anche esatto. Queste immagini che magari a noi sembrano statiche, ma che ad un etologo, ad un ricercatore, ad un comitato scientifico invece sono molto importanti. Diciamo che della vita di questi animali al nido in natura si sa veramente poco, non esistono altre installazioni di telecamere che riprendano da vicino il nido, e quindi è importante riuscire a capire effettivamente quello che viene chiamato time budget, cioè quanto tempo viene speso al nido, quanto tempo nelle cure parentali, come va la nidificazione, perché di questi animali, ahimè, si sa veramente poco. Soprattutto, cioè, si sa tanto dal punto di vista della cattività e della loro biologia generale. È una cosa recente, giusto per dare un'idea, anche il riuscire a determinarne il sesso, perché sono animali un po' come anche altri uccelli, che non hanno forte dimorfismo. Alcuna manifestazione della loro, diciamo, del loro sesso nell'aspetto esteriore. Senti, mi dicevi prima della trasmissione che c'è un problema di avvelenamento da piombo. c'è un problema di avvelenamento da piombo. Questi animali appunto mangiano carcasse, carogne. Tra l'altro dal punto di vista biologico è molto interessante vedere che la schiusa delle uova è sincrona perfettamente con l'inizio del disgelo, che è il momento in cui le carogne in natura emergono dalla neve. Tornano in superficie, sì. L'avvelenamento da piombo dipende dal fatto che la caccia, gli ungulati, ha per abitudine, vede per abitudine il cacciatore che eviscera l'animale abbattuto sul posto, e in una specie di cerimonia di ringraziamento verso la natura abbandona le viscere lì per gli altri animali. Ovviamente le viscere contengono un pallini di piombo. Sì, anche sono proiettili, vengono usati i proiettili a ogiva singolo, però diciamo il proiettile si frantuma. Certo. Molti animali non hanno nessun problema perché hanno una digestione molto veloce, quindi questo piombo del proiettile passa e va. Viene espulso subito. Invece per il gipeto, che appunto ha questo stomaco che è capace di macinare qualsiasi cosa, il piombo viene assorbito e gli finisce in testa. Finisce in testa, saturnismo, incapacità di volare, disastro. Insomma, vabbè, speriamo che questo tipo di lavoro che fate voi, Michele, possa in qualche modo aiutare a conoscere di più questo animale che finora era quasi sconosciuto ai più, e appunto a risolvere anche questo tipo di problema, forse, a sensibilizzare un po' anche... C'è una vedo dura questa. C'è un progetto internazionale legato proprio alla sostituzione del piombo con altri metalli meno tossici, però è complesso. Insomma, costa molto di più. Costa molto di più, il comportamento del proiettile in aria non è esattamente identico, e quindi ci sono molte resistenze ad adattare. A cambiare. Grazie Michele. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Qualche anno fa Mary Gross, signora che abita in Pennsylvania, stava rovistando in solaio fra vecchie scatole e valigie e mobili della sua famiglia. Ad un certo punto, fra un mucchio di carte, ecco spuntare un piccolo documento infilato dentro una busta, nella quale c'era anche una fotografia. Il documento era una licenza per pilotaggio, datata marzo 1912. Licenza intestata a Emory C. Melick, bisnonno di Mary Gross, di cui la famiglia praticamente sapeva solo il nome. Ma la foto era la sua, come risultava da una scritta sul retro. Ed è qui che, con grande sorpresa, Mary Gross si trovò ad esclamare: «Santo cielo, ma era un nero!» Esatto, e non è sorprendente. In molte famiglie americane ci sono storie di matrimoni misti di molto tempo fa, ai quali seguirono però accoppiamenti, come vogliamo definirli, monocolore, e cioè significa che se a un matrimonio bianco e nero seguono poi storie solo bianche o solo nere, ci si può tranquillamente dimenticare che il bisnonno era di un certo colore. Il fatto è che la licenza di pilotaggio di Emory C. Melick era la prima licenza data a un uomo di colore. Definizione sempre storta, lo so, perché sembra che gli altri siano dei senza colore, comunque insomma, non importa, la sostanza è chiara. Fino a questo ritrovamento si pensava che il primo afroamericano a prendere la patente di volo fosse un certo James Herman Benning nel 1926, quindi un bel po' di tempo dopo. Dopo questo ritrovamento in solaio, comunicato al mondo degli appassionati di volo e pubblicato su molte riviste di settore, è iniziato il lavoro degli storici dell'aviazione. E le storie hanno iniziato ad emergere. Melick viveva in una cittadina sul fiume Susquehanna e nel 1914 si era comprato un biplano con il quale sorvolava l'abitato. Si racconta che la gente che lavorava nelle piccole fabbriche della zona usciva tutta all'aperto per vedere Emory che volteggiava in cielo. Poi il nostro amico ricevette una proposta di lavoro a Filadelfia da una società che faceva fotografia aerea e anche scuola di volo. Siamo poco prima del 1920 e con gli aerei si inizia anche a provare dei trasporti passeggeri. Qui le cose si misero male per Emory. Con un suo biplano, che però poteva trasportare due persone oltre a lui, ebbe un primo incidente, fortunatamente conclusosi senza gravi conseguenze. Ma nel 1928 c'è un altro volo che finisce male. Questa volta Malik si ferisce in modo serio e i due suoi passeggeri perdono la vita. Il nostro uomo allora appende le ali al chiodo. Non vuole più volare, resta nel mondo delle cose che hanno a che vedere con l'aviazione, ma i suoi piedi stanno saldamente a terra. Nel 1930 un gruppo di piloti gli chiede se vuol fare un giro in cielo e lui risponde: no grazie, mi sono già divertito e quel che è stato è stato. È strana la conclusione della sua vita, perché ci dice che Emory C. Melick era una persona sola, nel 1957, in dicembre, scivola sul ghiaccio mentre cammina in una strada di Filadelfia, cade malamente e all'età di 77 anni muore all'ospedale della città. La sua salma rimane all'obitorio per un mese, nessuno si fa avanti per effettuare un riconoscimento, dopodiché Emory viene sepolto con una cerimonia d'ufficio. Abbiamo concluso per questa sera. Spero abbiate trovato interessanti tutte le cose che vi abbiamo raccontato, e con altre storie di scienza ci sentiamo fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.